e soprattutto l'onere qui al Cattisarc di presentare i disgustisti. Per mantenere l'atmosfera Bravi. molto particolare, chiedo di spegnere i telefonini così non disturbiamo i poeti. Lo sa mio. È un Un po' di piacere. divertimento. Sarà dura, sarà durissima. Rimarranno accesi da quelli poeti, quelli di sta qua dietro. Salve a tutti, buonasera a tutti. Oggi siamo presenti in massa, manca il nostro ideologo perché come sempre la sera lavora. E ci sono due persone che non hanno dato traccia di sé, una forse sta arrivando, dal famoso Andrea Evangelisti che voi tutti ben conoscete. L'altro, se credo si sia disperso. Abbiamo due nuovi elementi che inviteremo a esibirsi con grossissimo piacere perché devo dire che sono molti mesi che nel team dei disgustisti non abbiamo new entry. Io sono Tecnociccio e provvedo ad aprire con la lettura del nostro manifesto. Sappi che, scusa, volevo dire una cosa, sappiate che non è solamente, come tu spiegherai, solo disgustismo. Esattamente, come ha detto qui il nostro caro Nato Alluci, non tutti gli esponenti che si esibiscono questa sera aderiscono al movimento disgustismo. Una buona parte aderisce, altri invece portano avanti non c'è nato un discorso proprio, dadaisti, disgustisti e non disgustisti, e tante altre cose, un fatto comune. Va bene, i puristi, bravi puristi, soprattutto i puristi. Sono gli ammiratori di Purino. Ciò che ho già detto prima, no, questo va bene. Un po' di voce. No, me l'ha detto Gazzetta. No, si è fermato. Qui è una loggia, no? È una loggia, quindi. È come i compagni di ballo. Hotel. Ci vuole il capito, che ne so, no? Qui mica scherziamo, che stanno giocando. Ok, procediamo a leggere il manifesto. Avevamo vegliato, noi disgustisti, sui vostri avanzi. Rigenerando quello che avete gettato ed ogni forma d'arte è stata proclamata. I poeti disgustisti sono nipoti del futurismo e dadaismo, cugini del punk e figli del rigetto di stomaco. Sono i nuovi non poeti, usano rime asimmetriche baciate e leggono senza intonazione. Sono idioti geniali e grandi menti, provocanti e provocatori. Sono l'ultima sponda vicino alla discarica dei rifiuti solidi urbani della letteratura italiana. Disgustismo, disgusto per l'arte o l'arte del disgusto, ai malati terminali, larga sentenza. Questo è il nostro programma scritto dal nostro ideologo, adesso Claudio. Adesso procedo a leggere il manifesto. Cominciamo con il primo comandamento. Sette! Noi siamo gli oratori del cattivo gusto, abitudini al mal d'odore, al puzzo, all'olezzo, al riciclaggio. 98. Riciclatori d'arte di tutto il mondo, unitevi e espellete il vostro vomito creativo, depositato dentro lo stomaco tiranno. 34. Noi affermiamo la magnificenza del salame decomposto, della poesia sghemba variata, la sporcizia etere televisiva, la moneta da 50 lire e la matita con la gommina. 1. Noi inneggiamo all'autentica defecazione pubblica contro la falsa genuinità. 75. Popola. Abbasso il forno a legna, abbasso la griglia, abbasso il romanzo. 6. Noi glorifichiamo le malattie sessuali, unici status symbol del XXI secolo. 69. Porteremo nel XXI secolo solo le 1000 lire con epigrafi, feticcio e simulacro novecentista. 47. Morte al Novecento. 33. Noi vogliamo distruggere il prefetto? Esprimiti con le parole di Dio. Lo accettiamo. Il perfetto, credo. Il perfetto. Il perfetto, il nuovo e l'antico, le biblioteche e gli alimentari, simboli novecentisti. 12. È dall'Italia che noi lanciamo per il mondo quel nostro manifesto di disgusto rivoltante. Volete sprecare le vostre energie migliori in questa eterna ammirazione per il XXI secolo, da cui uscite stanchi e calpesti? Ritti verso il 31 dicembre 2000, noi vomitiamo la nostra sfida al futuro! Applauso, magari. Ah! Bravo! e tutti voi. Se pensate posso chiudere qui o leggere anche il manifesto della chiudi pittura. Anche la porta, però la pittura che c'è non ci sta là, non lo leggo, va bene. Dai, devo leggere tutti questo quadro in qualsiasi cosa. Poi che dite, lo leggo? No, il cinema no, il cinema non ce l'ho. Vabbè, io adesso ho letto il manifesto, basta, vai a casa. Ho già rotto i coglioni abbastanza, ritornerò più dopo. Chi dopo? E adesso venga chi vuole. Venga chi vuole. Venga chi vuole. Venga chi vuole. E se c'avete il cappuccio mettetevelo, Fraioli, mettete il cappuccio. Voi che più vicino. Ah, vabbè. È una loggia questa. Dai, comincia a prendere. Bravo, il cappuccio. Allora, mi presti il cappuccio? Io non scelgo. È bello il cappuccio. Comincerò con le ultime creazioni che non ho ancora battuto a macchina, quindi adesso non devo niente. Nei tuoi occhi c'è il cielo, nelle tue labbra il sapore del mare, nelle tue orecchie il canto del vento, nelle tue mani un cuore che freme. Nei tuoi occhi c'è il cielo, nelle tue labbra il sapore del mare, nelle tue orecchie il canto del vento, nelle tue mani un cuore che freme. Nei tuoi occhi c'è il sapore del mare, nelle tue labbra il canto del vento, nelle tue orecchie un cuore che freme, nelle tue mani c'è il cielo, nei tuoi occhi c'è il canto del vento, nelle tue labbra un cuore che freme, nelle tue orecchie c'è il cielo, nelle tue mani il sapore del mare, nei tuoi occhi c'è il canto che freme, nelle tue labbra il cuore del mare, nelle tue orecchie il sapore del cielo, nelle tue mani c'è il vento, nei tuoi occhi c'è il cielo, nelle tue labbra il sapore del mare, nelle tue orecchie il canto del vento, nelle tue mani un cuore che freme. C'è rimasto libero il culo. È molto bello che abbiamo detto. Questa è sempre parte del dossier sull'amore e l'innamoramento, lo so. Complimenti. Intenditrice, la fine. Lo so perché ieri non mi hai portato il giornale. Lo so perché ieri non mi hai fatto il caffè. Lo so perché ieri non mi hai baciato. Perché è dall'altro ieri che sei morta. Io amo l'amore. E lo dimostrerò con questa vecchia poesia che si intitola Donna. È venuto a trovarmi John. John è un mio amico. Si è seduto, abbiamo bevuto birra e chiacchierato. Non vedo più. Ma mi ha spiegato i lampi dei flash, mi devo mettere in attenzione in come l'altra volta. Allora. Ecco, quando rifà. Almeno così non mi sembra. Mamma mia, c'è chi è noi però. È venuto a trovarmi John. John è mio amico. Si è seduto, abbiamo bevuto birra e chiacchierato. Non ho avuto nessun desiderio di fotterlo. È venuta a trovarmi Barbara Sue. Barbara Sue è un'amica. Si è seduta, abbiamo bevuto birra e chiacchierato. Avevo una gran voglia di fotterla, ma non gliel'ho nemmeno detto. È venuta a trovarmi Donna. Donna è la mia ragazza. Si è seduta. Io ho bevuto birra. Io ho parlato. Avevo una gran voglia di fotterla, gliel'ho detto, ma lei non ha voluto. Spero che torni ancora a trovarmi John. Poi, dunque, vediamo un po'. Quale altra mondezza posso propinarvi? Se c'è qualcosa di nuovo, c'è qualche richiesta? Ma vattene, vai a casa. C'è una sigaretta? Allora, vediamo. Ecco. Questa è anche una delle ultime, spero poi basta. Mi piacerebbe osservarti mentre sudoratamente nuda ti fai la doccia. Osservando il tuo giovane corpo coperto di trasparenti gocce, sognerei di trasformarmi in una di esse e tu mi sentiresti scendere furtivo tra i segreti della tua pelle, percorrere silenzioso gli impudici anfratti della tua femminilità. E tu, dolcissima, schiva, sussurreresti: ma trasformati in acqua calda, rimortacci tua. Adesso, basta con le cazzate, entriamo un attimo più nel sacro. C'è una serie di letture e di, così, non so come si chiamino perché non frequento molto la chiesa, però fanno parte di una serie di messe che per un periodo abbiamo messo in scena. Questa è la parabola del buon Mario Pastore. Mario, il buon pastore, andò di sabato alla fiera agricola e acquistò un maiale transgenico e lo chiamò Demetrio Innocenzo Osvaldo, ma usò per brevità solo le iniziali D-I-O. Offeso, il maiale si uccise e ne fecero prosciutto e salsicce e le distribuirono dicendo: prendete e mangiatene tutti. Ma il maiale transgenico era infetto dal virus del porco pazzo e chi si cibò del corpo di Dio divenne completamente folle. Adesso io finirei qua con le poesie, però non volevo leggere una poesia per finire, ma questo è il mio taccuino degli appunti, non mi scrivo al volo quello che mi devo ricordare di fare il giorno dopo. E ho iniziato stasera venendo qui, quindi l'ho scritto in fretta e furia. Cose da fare appena divento Dio, numero uno. Appena divento Dio, il che per motivi organizzativi non potrà avvenire prima della settimana prossima, voglio dotarmi di un esoscheletro plasmatico, cioè una cosa, una specie di corazza, di un'isola, che mi isola completamente dall'ambiente circostante in situazioni tipo conversazioni su Eros Ramazzotti udite al bar. Cose da fare appena divento Dio numero 2. Con un po' di esperienza disintegrerei chiunque parli di Eros Ramazzotti. Tra parentesi, nota bene, con ulteriore esperienza potrei riuscire direttamente a disintegrare Eros Ramazzotti. Grazie, io passo la parola a voi. E di Marco Caniti che ti dici? Chi è? Marco Caniti. Non conosco. Conosci bene invece. Conosci bene. Forza, il prossimo cappuccino. Conosci bene. Ma dopo i pirati, le cose. Eh beh, ma dopo, ma tanto che è un giro tu. Buonasera a tutti. Ciao. Inizio subito con una cosa che mi scalda. Voce Cristi, voce. Una cosa che mi scalda perché... Non ho capito. Una poesia che mi scalda, ricordo vocale. Uomini con piedi con patate, donne e patate con piedi. Uomini, donne patate con piedi. Uomini con donne con patate e donne patate con piedi. Uomini con piedi con patate e donne patate con piedi. Uomini con donne con patate, donne patate con piedi. Uomini con piedi con patate, donne patate con piedi. Voce. Segue una splendida serata tra amici. Con accorgimento centesimale mano efficiente cupezza stasera, la bassa plebaglia contorno, in butella vacue parole sorseggiando birra che gonfia l'addome. Stento, ho difficoltà nel riuscire ad accennare interesse. Quindi con stercoraceo sforzo rigurgito ragionevolmente liquami verdi nei quattro ceneri ricolmi di cicche delle più svariate marche, mie e di altri, nei boccali di birra mezzi vuoti, ora mezzi pieni. Mi netto la bocca, controllo che il rossetto sia a posto, mi alzo, saluto e me ne vado a casa, dove sarebbe stato meglio non mi fossi mai allontanata. No, io so, noioso, noioso, noioso. Come? Noioso, noioso, noioso, noioso, noioso, noioso. No, io so che giri per casa in pigiama, pigiama orrido e corto. Logoro e stretto, che porti ciabatte da vecchio, che mangi pagnotte e poi rutti, che vivi ancora coi tuoi. Noioso, noioso, noioso, noioso, noioso, noioso, noioso, noioso. No, io so. Che sciorini per filo e per segno la tua unta uggiosa giornata. Parlando di questo e di quello, a cena ti uccisi di dente. Aspirando a stantuffo con lingua e succhi, cercando quel pezzo di cibo incastrato tra i denti. Poi dici, mi piace. Noioso, noioso, noioso, noioso, noioso, noioso, noioso. No, io so. che sono due volte che ci vediamo e scusa, non avevo notato i peli del naso che escono a ciuffi, veramente sto brutti, che c'hai i piedi con le patate, gli occhi gelatinosi e la litosi. Io so che non mi piaci della serie, meglio da tardi che mai. Brava! A chi tocca? Serve un cappello? Che ti serve? Io direi che anche il pianista ti presenti, E Daniele Timpano pianista. Dall'aspetto sembra un disco. Ti ricordi? No, ma ce la farò. Allora. Ma compagni, ma compagni il cane di Ivano? Per recitare. Ricorda i quattro parametri, lentezza, registro medio basso. Ma sempre? No, ora c'è quella registro medio alto. Ricorda di suonare piano. L'avambraccio. Leggerò solo due poesie. Solamente due poesie. La prima della mia carriera di poeta, scritta nell'89, una delle ultime così, accompagnata al pianoforte dal maestro Timpano, fantasista. Problemi alla corde vocali. Il cappero. Quando felice il buon fiore, questo è chiasmo, chiasmo è questo. Rispella contento per due ore. Insieme al prezzemolo ci fa il pesto. Il pomodoro è un San Marzano, la farina da sola la misticcia. Le mozzarelle vengono da Milano e nel forno ci metto bella pizza. L'è già sul tavolo la tovaglia. Il padre contento è già seduto nel tutto il piatto, fa che giocca. Si può dire vero anche capire, né digestione è in vero perduto. Perciò, per bello fiore, tra l'allero, e ora che mancavano registro medio basso. Che piano di uno? Certo, c'è anche i pedali. C'è anche i pedali. L'avambraccio. Sì, l'avambraccio. Questa è una delle ultime. Ma non l'ultima. Che ne sai? Maestro. Vai. Gli amici di sempre. Lungi da me i giorni in cui, rasando, i treni prendevo, spalmando negli interni di arbusti e delicati. Il pinguino che abbiamo nella tasca interna è il nostro metro di giudizio? E allora, menzione. Finita? Bravo, il medico. Stampante è rotta, quindi non sto parlando questo. Grazie stampante. Menzione forever, menzione. Menzione è una bella cosa, proviamo. Menzione d'onore. Avanti, una testa. Dai, veloce. Presente. È il caso di dire che Marcio di Mazzi era una new entry, adesso abbiamo la seconda new entry della serata. Era proprio il caso. Donatella. Questi sono haiku, iniziali, l'haiku è una... Voce! Come sapete l'haiku è una poesia giapponese, nasce 400 anni fa, e la prima metrica è 5.5, quindi è abbastanza banale. Le fortune... Sole fottuto, questo è molto scuro, sole fottuto, ti scaldi l'anima, ma spacchi il culo. Un aforismo! Carlton Cruise, Meglio trombare oggi, perché domani? E questo invece è un augurio di Capodanno. Voglia il Dio che nell'anno 21 forse si possa. Sono auguri che ci toccano tutti nei video. Condividiamo pienamente. Beh, ma perché non ti scappi il coglione? Non vorrei scardinarti i coglioni a tutti, però, come diceva lui. Insieme o gospite, inneggianti cosmofibie rime. Sovitevoli, se tabit, dove cose sembrano rose, dove rose tubano il foso. Carelliadi di lumi sparsi, ma novellati X servo risvegliano il cuore ben brandellato. Di gospite, bricolanti in tacchi puri, maniglie disperse in sughi punti, lavigli regolati in salimandi, è vero mio fosforita, tu la sisci in germinali unghie, stretto da otellanti maniglie ive, colminate un più piccolo e bricevoli gospite che ormai gospite più non siete. Povere. Bravo. Povere gospite. Come rei tra fluidi fiori librandomi. Risico una regola da tisico, mansueto spiraglio fisico. Una regola vegetale formata nell'olio e nell'olio io ti calio. Stome X7 per stema R, non vorrei, ive ancorar. Regola per verticchie, pulsare incaverato. I sigilli si aprono con la luce. Lo scatto abilico sfratto, fessure alate in groppa al gatto. Cioè? Leggo l'ultima che ho scritto a Natale, è molto bella, sì, perché non è Natale. Riflesso dal vetro della mia finestra emergono in me tanti sottili desideri. E Natale mi ergo ritto in un batter di mani dicendo, cazzo è Natale, allora nevica. Corro velocemente alla finestra e la vedo, e lì, lenta, copiosa, è un'alleata fedele del cielo. Questo mi fa riflettere sul peso che ha la mia esistenza in questo contesto imbarazzante di un uomo che alle porte di una prossima mezz'età si chiede dove cazzo ho messo gli occhiali. Oggi sono molto felice, mi sento stranamente bene, è strano, ho deciso di essere più buono e più attento. Ma intanto la neve scende, sembra quasi che nella mia stanza entri, sembra che cada dal soffitto, ma no, è solo successivo effetto. A Natale tutto diventa come il presepe. E palle. Si rigidiscono gli arti e le gambe si irriticano. Le giornate sono corte apposta. La neve cade ancora, sono veramente a regola in questo posto. La neve scende anche sulle mie spalle. A questo punto io mi chiedo, ma è la neve? No, è la porpora. Lavati. Poeta. Adesso cercheremo di risollevare un po' la serata. Immolare tutte le cazzate. Proviamoci, va. Ci vuole coraggio, lo so. Io ce l'ho. Allora, inizierei con un classico che è conoscersi. Voi siete quelli che strizzate il tubetto del dentifricio fino a quando non esce più nulla. Voi siete quelli che vi soffiate il naso e poi guardate dentro il fazzoletto. Voi siete quelli che andate al mare di lunedì per rimorchiare parrucchiere. Anche. Voi siete quelli che fate le puzze dentro il letto e poi mettete la testa sotto. Voi siete molto simili a me, solo che io sono più bello. Bravo. Grazie. Allora, adesso direi una che ho scritto stasera. Non la trovo. Aspettate, da qualche parte c'è. Ma devi ancora scrivere? No, no, può scrivere. È grave. Ecco. Lascio la macchina al mio migliore amico. Lascio casa a mio fratello. Lascio i soldi ai miei genitori. Lascio il camper a mio zio. Lascio la TV, il CD, il DVD al mio più caro collega. Meritate tutto quando esco di prigione. Adesso ne ho scritta una che parla dell'argomento di questi giorni, di quegli idioti chiusi dentro quella casa. Bravo, Dio! Cioè, sapete tutti di che parlo, perché non sa far finta che non sente nessuno, ma segue tutti, sanno tutto tutti. Allora, giustamente non potevo non scrivere una cosa del genere. Si intitola "A Cristina del Grande Fratello gli piace il pisello". Sapete tutti, tutti al potente. Tutti parlano di questo programma. A te chi piace, Sergio o Marina? Chi uscirà per prima? Intanto a Cristina gli piace il pisello. E se esce Lorenzo, il cuoco, come faranno gli altri? E quello sposato come farà a resistere? Intanto a Cristina gli piace sempre il pisello. Ma come fanno a stare lì senza TV, radio, orologi? Sarà vero o sarà tutto falso? Sono esibizionisti? Intanto a Cristina gli piace il pisello. Un altro bel dilemma, Rocco è gay? L'unica cosa certa è che Pietro si scopa Cristina, anche perché a Cristina gli piace il pisello. Comunque, a tutto c'è una soluzione, udite. Andiamo a Cinecittà e quel bello appartamento facciamolo brillare con la dinamite. Grazie. A Cristina, che piace sempre il pisello. Ah, simpatica Cristina. Pesci. Pesci non ce l'ho perché devo regalarti. A posto. Beh, la potevi stampare. No, aspetta, c'è un'altra. Questa poesia veramente l'ho scritta una sera mentre abusavo di sostanze alcoliche. Non ero completamente ubriaco come quella volta che ho guidato contro mano su raccordo, ma c'ero molto vicino. D'altra parte, quando salta i freni inibitori, uno scrive meglio. Vabbè, questo era il Tino, no? Vittorio era Tino. Una canzone. Confettura di frutti di Boston. Adoro i mirtilli, le more e i lamponi. Ed anche se poco che ti conosco, mi hai già rotto i coglioni. Non fare domande senza senso, tipo, hai visto la benzina aumenta? Non saprei mai quello che penso. Voglio distruggere un ferramenta. Odio i maglioni di Ciniglia. Mi fanno schifo le automobili coreane. Allora mi riattacco alla bottiglia. Spero che affoghi nel liquame. Se faccio 6 al Super Enalotto, mi compro la macchina nuova e parto per un bel viaggio. Ma se non lo faccio, molto probabilmente mi compro ugualmente la macchina nuova e faccio un bel viaggio, perché l'avevo deciso prima. Grazie. Arriva dopo. Vorrei concludere, ce ne sarebbero tante, però concludo come al solito, con grazie. Comunque vada, grazie. Gabriel Omar Battistuta. Raccolti di nespole nella mia mente, dolcificavano l'amaro che mi aveva lasciato quel lievito che con latte e caffè aveva risvegliato lo stomaco dalla notte senza sogni. Ese. Il passo pesante schiaccia miliardi di esseri umani. Ma che cazzo parla? E la loro morte trasale dalla mia suola, che non li rispetta, immettendo in me l'umore derivato. Automobili mi attraversano davanti, aspettando che io freni per lasciarle passare. La metà della mia strada, che mi divide da ciò che tutti i giorni mi ospita, mi propone la corsia dei bus. Passa carico forte e deciso il globulo che scorre nelle vene della città. forse molto più globulo di quelli che ho io nel sangue. Dovrei smettere di donare il sangue. I miei globuli sono in questo momento sterili di felicità. Tocco il marciapiede e un gruppo di uomini e donne mi sostano davanti ammirando ciò che sei bravo. Ecco le prime vittime. Beati voi che andate a casa. È servito a questo. Noi ancora 3 ore qua. Vanno al cinema, vanno. È Enrico Mortis. Terribile. No, sei Enrico Mortis, scusa. Cioè, sei visto? Beh. No, tempo più sciolta. Qui è tu morto. Non sai cosa ho fatto quel giorno. Senti che dice. È malato. Quando io la incontrai. Mi spiace, ho fatto un pagliaccio per mettermi in mostra gli occhi di lei. Lei scherzava con tutti, al di fuori di me, perché io le piacevo. Lei mi amava, lei mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo. E già soffriva per me. Anche noi. Lei, per farmi gelosire. Lei era morta, si proietta. La notte lungo il mare è venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me tua moglie dov'è. Grande, dovevi immaginarti. E con le lacrime. Un giorno all'altro sarebbe andata via. Tu l'hai sposata sapendo che lei moriva per me. Con i tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo amore. Un giorno vidi lei entrare nella mia stanza. Mi guardava silenzioso. Aspettava un sì da me. Io dal letto mi alzai e tutta la guardai. Sembrava un angelo. Mi stringeva sul suo corpo, mi diceva sono tua. Che pietra io restai. Uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso, rimandandola da te. Troppo veloce. Rimondandola, però non era male. Era una scena, sembrava un angelo. Mi diceva sono tua e nel sogno la baciai. Brava. Rimondando c'è stato un lapsus. Ma lo pensava. Altre 9. La salvava. Dal peccato. Allora provo intanto che stasera facciamo esperimenti. È malato. Questa poesia è stata fatta da tutti. È uno stage. Voce, non si sente, dai, strilla. Ah, come poesia. Bravo. Certo. Correvo in un canale a una sintetica e il sole mi bagnava i tuoi biondi capelli. Sapevo che il giorno passava di fretta, anche non diceva. Sì, ritmo a quello. È sperare. Perché scappando con la bicicletta rimasto? Un sermone mortuario. Quella gran vacca che bacca, non notai che ebbe l'acca sulla sacca. Mi trovavo sulla fornace mentre mangiavo i scogliattoli alla brace. Fu a quel punto che esclamò distratto. Perché nuoti senza farmi il ritratto? Io pensai al vuoto che mi circonda, guardando te cosa allegra e giocosa. Questa è tutta una... Puoi spiegare? Ma che cosa è? Ma spieghi te. Autori vari. Una frase per poeta abbiamo scritto. Una vergogna. Non ve le ricordate? Sì. Chi l'ha scritta? No. Davvero? Ci vediamo troppo. La laguna che... La morte è vita. Ecco. Bravo. Questa è bellissima. Vai con l'allegria. Tutti con le mani lì. Mi raccomando.